Ad alta voce. Patrizia Zappamulas legge Artemisia di Anna Banti. Seconda puntata. Pitti stridono le cicale umane. È già a mezzogiorno. Da 8 ore la luce è incominciata. Da 6 i soldati alleati sono arrivati e le donne li hanno baciati, come si è potuto vedere dalle finestre infrante della Galleria Palatina, nostro rifugio, nel sole torrido. Un'impietosa nausea prendeva chi stava a guardare. Con un'intransigenza imperdonabile scaccio lo sbigottito rimpianto di Artemisia. Mi vergogno dell'accanimento con cui l'ho intrattenuta in piena guerra tutta la mattina. Ma so che ricadrò nella mia pazzia e già la sento digrignare nelle mie mascelle. Non è vero! Cosimo non mi ha stretto un dito. È ferma all'addio a Cecilia. A quel che Cecilia ha potuto credere, ascoltare le donne di casa maligne, quella baglia che non mi guardava. Se penso alle pagine distrutte, al cauteloso arbitrio con cui muovevo una protagonista ora tanto presente, non so più cosa rimpiangere. M'offende l'impeto con cui trascorro al di là di quel che la memoria mi permette, di quel che il racconto portava. Pure mi tocca giurare che Cecilia Nari non pensava a male quando increspò le labbra. Era il dolore ormai imparato come un contegno a volerla sempre più attenta. Morì dopo un anno, precisamente nel 1611 di aprile, rincalzo socchiudendo gli occhi nel sole rosso sotto le palpebre come le fiammelle delle torce nel piccolo funerale. Non tanto piccolo, del resto, i Nari fecero sfoggio di quella liberazione. Da via Paolina a San Lorenzo fu tutto un corteo di zitelle, bianche e brune, cilestri e berrettine. Gli amici d'infanzia restano sempre bambini. Artemisia sbigottisce che Cecilia sia morta. Non me l'avevi detto. Poi, accanto alle torce, ritrova la tomba della sua vergogna, una tomba ardente, e di nuovo riprendo a consolarla. Non ha saputo, Cecilia, non si intendeva d'amore, d'abbandoni, di tradimenti. Ersilia non le ha raccontato che la storia di Genoveffa ti credeva una specie di Santa Barbara guerriera. Dalla sua finestra le sembravi alta come le torri della Trinità. Nell'impegno di improvvisare un conforto, quel che ho scritto e ho perduto mi diventa inestimabile, come un testo unico, e tanto più mi brucia il mio dolore, quanto più Artemisia, rassicurandosi, rientra in dignità. Espulsa da un tempo raccontato, ragionevole, ha sulla sua persona misteriosa tutte le sue età, e la vedo allontanarsi col piglio di Diana che ebbe fra i 18 e i 20 anni, quando, maritata per ripiego, marito non volle e viveva solitaria. La ritrovo qui sul prato, all'altezza del belvedere, dove ci si sdraia sull'erba calda col rischio delle mitragliatrici. Sfidavo i discorsi della gente, tutto il vicinato di Santo Spirito, di Sant'Onofrio. Camminavo dritta, con gli occhi ben aperti, senza guardare nessuno. Uscivo sola, per spregio. La mossa del suo labbro arricciato imita quella di Cecilia, da cui fu ferita. Da cui fu ferita. Così era scritto su un foglio, circa a metà pagina, e una goccia d'acqua aveva dilavato la riga. Ecco che Artemisia, e non Artemisia soltanto, soccombe al ricordo. Mutamente geme, come una medusa fra i serpenti, e di nuovo è distesa, schiacciata in un sonno bianco di polvere, e volge la testa di lato, da giovane morta, che cerca l'ultimo respiro. Il crepuscolo c'è sopra. Ieri sera tutte le pietre di Firenze erano salde, tutte le cose che esse riparavano erano intatte. Là sotto gli ultimi travi cedono, Si dice che misteriosi incendi ardano fra le macerie. Ricomincia la maledetta notte. Ma fra i patti del mio sonno letargico, sul pavimento atterrito d'una reggia, una nuova presenza vuole essere soddisfatta a ogni costo. Per eluderla, la interrogo, e non senza cattiva ironia. E non smetti di rimpiangere, Artemisia. Rimpiangi anche Serafino Spada, un nome inventato, quello di cui la mano tremò scrivendo il verbale a Corte Savella quando ti diedero la corda. Aveva veramente le lentiggini e gli occhi gialli, ma pietosi. Bergamasco, arrivato a Roma nel 608, quando bruciò Palazzo Farnese e lui guardava dalla piazza i San Pietrini che si passavano le secchie per spengerlo. Nel buio, nella brutalità del fragore di guerra, sotto le mie palpebre strette a forza, il volto di Artemisia si infoca come quello di una donna litigiosa. Potrei toccarlo e le vedo in mezzo alla fronte quella ruga verticale che ebbe dalla prima età e non fece che approfondirsi. Alla voce roca, l'accento smozzicato della popolana di borgo, mezzi consunti ma non esauribili nei disperati di esprimersi, di giustificarsi. E che cos'altro ha fatto Artemisia se non giustificarsi dai 14 anni in su? Agostino veniva tutti i giorni, no? Veniva con quell'aria, mo vestito da turco, mo da cavaliere, la collana in petto. Era bravo a fare rugantino. Ci faceva ridere noi ragazzi, che era una degnazione, uno che si teneva uomo grande. Babbo dipingeva e stava zitto. Lui si fermò a guardare quel che disegnavo su quella tavolina e fa, dice, la vuoi imparare la prospettiva? Stavamo alla croce. C'erano due entrate, un porto di mare. Io facevo cucina, lavavo pure, guardavo i ragazzi, no? Che erano piccoli. Francesco 10 anni e Marco portava ancora la vestina. I soffitti a travicelli, freddo d'inverno, caldo d'estate. Non potevo aprire la finestra. Sempre qualcuno mi faceva brutti segni. Roma era così. C'era quello vestito di longo con la barba bionda, rosso, che pareva avesse sempre caldo. Pasquino Facocchio, spudorato, spettorato. E Luca Sartore, che mi mandò di nascosto il cammellotto verde. Tutti volevano entrare. Non serviva tenere le porte chiuse. Babbo mi voleva mettere fra le monache. E poi veniva Cosimo Foriero con la carrozza e tutti all'osteria. Agostino mi sedeva appresso. Piangevo, ridevo, mi volevo maritare. La comare Tuzia scendeva per l'acqua o per il fuoco, mi stava intorno giornate sane e sempre discorreva, diceva, facciamo una pizza, io metto il miele. Impastava lei perché non mi sciupassi le mani, portava il pupo perché lo dipingessi. Diceva che non stavo bene in casa con tutti questi che ci vengono a comprare quadri, cavalieri e mercanti. Quelli ti vonno rovinare, ma tu da retta a chi ti può essere madre. C'è Agostino che se ne more. E Cosimo me l'ha detto. Domandaglielo se non ti sposa. Stati attenta anche a Cosimo. Fatelo compare. Ma è tipo da darti la caccia. Tiene più donne che Maometto. Tagliava la pizza, serviva i ragazzi, addentava la fetta. Non passa un anno che ne hai uno anche tu. Sposa Agostino, sciocca. Quello ti fa andare in carrozza meglio di Cosimo. Sbucava Agostino, non si sa di dove. Mi portava in sala per la lezione. Tuzia ci veniva dietro e chiudeva l'uscio. Avevo 14 anni. 14 anni. Seguita a cantare flebile con la luce del giorno, un'Artemisia diversa. Giovane, sventurata e contegnosa, non le importa che io mi distragga dallo struggimento di averla perduta. Si fa vanto di esistere fuori di me e quasi si impegna a precedermi di un passo, senza suono, quando il sentiero assolato che percorro adesso svolta nell'ombra. Sentieri di bosso e di lecci tosati, larghi quel che basta perché una coppia di rigide donne ci passi a bell'agio. Il linguaggio è morbido, modulato, studiato su esperienze d'ogni maniera, esperienze di un eterno racconto che di tormentoso può farsi a pro di un'amica vanto patetico. 14 anni. Mi difesi e non valse. Aveva promesso di sposarmi, lo prometteva fino all'ultimo traditore per togliermi la mia vendetta. M'aveva donato una turchina. Ti ho sposato con questa, diceva. Davanti a lui soffrì la tortura. Era livido e non diceva una parola. Confidenze conchiuse in bellezza, dedicate ad Arcangela Paladini, cantatrice, una bruna pallida col naso affilato, che orora esce di camera della duchessa vecchia. Le due virtuose passeggiano come dame. Nella cadenza del passo tintinnano le loro collane di poco prezzo. In silenzio pensano come progredire degnamente in una teatrale amicizia. Ma l'ombra di Arcangela è fragile e i profughi del cortile urlano incattiviti. Nulla di più facile che sostituirmi a lei e di nuovo costringere Artemisia a una violenta attuale sincerità. Oscillando, essa segue la turbata memoria di quel che scrissi, di quel che volevo indovinare o sacrificare alla fedeltà della storia. Prorompe il grido spropositato e drammatico in bocca tanto tenerella. Questo è l'anello che tu dai, Agostino. Queste sono le promesse. Serafino Spada, aiuto cancelliere giovinetto, scrive a occhi socchiusi, tutto spaurito. Artemisia mi confessa. Era brutto Agostino, era tozzo e giallo. A corte Savella lo spavento gli faceva il viso di fuliggine. Non mi piaceva, non mi era mai piaciuto. E l'anello lo buttai per fare più spicco, non so come, in faccia al giudice. Era un uomo grasso, di mezza età, con un porro in fronte e parlava col naso. Stava ai Giubbonari, sua moglie si chiamava Orinzia. Si tirò da parte il giudice quando mi vide lanciare l'anello, spalancò gli occhi e gli angoli della bocca gli piovevano in giù. Credetti che volesse strillarmi, ma non disse nulla. Pensava che le donne sono tutte uguali, tutte. Ora è per me sola che Artemisia recita la lezione. Vuol provarmi di credere tutto quel che inventai e si fa tanto docile che persino i suoi capelli cambiano di colore, divengono quasi neri e olivastro l'incarnato, tale l'immaginavo quando incominciai a leggere i verbali del suo processo sulla carta fiorita di muffa. Chiudo gli occhi e per la prima volta le do del tu. Non importa, Artemisia, non importa ricordare quel che il giudice pensasse delle donne. Se ne scrissi, non era vero. China la testa, ritorna a quel biondo opaco delle ragazze malsane, dal sudore acido, ma insiste. Dalla finestra di corte Savella, vampe di caldo, mosche, guaiti e litigi dei mendicanti in strada per i rifiuti della minestra dei carcerati. Accanto avevo il lezzo dei due birri, con le corde e i legni della tortura ancora in mano. Uno era pietoso, gli lagrimava un occhio. Sapevo anche, senza guardarlo, che la mascella di Agostino tremava. Non mi importava di sposarlo e neppure di essere disonorata, come dicevano. Fu allora che raccontai tutto quello che era successo, tutto, tutto, per filo e per segno. Devo aiutarla, stanca più di lei. Non al secondo, no. Al primo esame raccontasti ogni cosa. Tuo padre, che aveva scritta la denunzia nella prima collera, partì per Frascati. Non ti voleva vedere. Era in mano dei vicini, dei piagnoni stiattesi, di Madonna Tuzia Mezzana, di Cosimo Furiere. Chi ti suggeriva una cosa, chi un'altra. Tu volesti fare a modo tuo, come in confessione. Mi beve le parole di bocca, assente con la testa. Eravamo soli in sala. Madonna Tuzia batteva il tagliere in cucina. Dissi: ho la febbre, lasciatemi stare. Disse: ho più febbre di voi. E mi prese per mano. Volle che andassimo avanti e indietro passeggiando. L'uscio della mia camera era aperto. Mi tenne a forza sul letto, con le pugna, coi denti, ma io avevo visto sulla cassa il coltellino di Francesco. Mi allungai, lo agguantai e menavo di sotto in su, tagliandomi la palma. La sbalordita precisione anatomica dell'esame di Artemisia giovinetta non può aver luogo da me a lei. Le parole che le mammane, dopo averla visitata, le insegnarono, son passate attraverso la mia memoria come scintille, lasciando cenere triste. E nemmeno la tenera Artemisia se ne ricorda ora. Poggia il capo sulla mia spalla, un peso di passerotto. e con voce convalescente. Dopo, tutte le volte facevo sangue e Agostino diceva che ero di povera complessione. Non serve più nemmeno la smorfia di spregio. Gli occhi larghi si incantano senza rancore e sono gli occhi di una innocente che il segreto della vita non convincerà mai. Per quante forme, per quanti modi diversi possa esprimersi il dolore di un'intattezza violata, Artemisia me lo fa intendere in quest'aria di sacrificio e di pericolo che fomenta, con i rimpianti di tutti, il suo rimpianto di risuscitata invano. La nostra povera libertà si lega all'umile libertà di una vergine che nel 1611 non ha se non quella del proprio corpo integro e non può capacitarsi in eterno di averla perduta. Per tutta la vita essa si adoprò a sostituirla con un'altra libertà più alta e più forte, ma il rimpianto di quell'unica restò. Mi pareva, con quei fogli scritti, d'averlo quietato. Ora ritorna più intenso che mai, con un moto di relitto che appare e dispare sull'onda che lo porta, e a momenti sembra che l'acqua limpida l'abbia digerito. Scottata mille volte al bruciore dell'offesa, mille volte Artemisia si fa indietro e prende fiato per lanciarsi di nuovo nel fuoco. Così usava un tempo, così usa oggi con me. La prima passeggiata. È la bambina che tira per la manica e chiede il racconto preferito. È l'accusata che non si stanca di sollecitare l'unico testimone favorevole. Ancora una volta vuol scavalcare l'irreparabile, risalire la corrente, annullare il fatto con una spiegazione. Né mi consente di ordinare le parole. È ripallida dopo un inverno al chiuso e la sera, se il babbo, rientrando da Montecavallo, lasciava poco poco l'uscio aperto, subito Tuzia entrava e diceva: «Questa figlia, signor Orazio, tiene una faccia poco buona. Parlo per coscienza, che ha le zuccolette. Vogliono ragazze toste e la superiora ve la rimanda a casa. Io dico sempre, aria buona e devozione mantengono la salute». Il babbo ti guardava incredulo e tediato e disse di sì in fretta, ti portasse pure Madonna Tuzia a spasso di buon'ora. La mattina d'estate era velata e stracca. Su per le balze di Trinità dei Monti si poteva vedere la finestra di Cecilia Nari chiusa. Il sole si scoperse quando imboccavate lo stradale di San Giovanni, un fiume di polvere pesante che le carrozze rovinando sollevavano fino al cielo. Averne una a disposizione, sospirava Tuzia. C'era con lei tutta la sua brigata, la figlia Gobba, i quattro ragazzi, il pupo che piangeva e anche Francesco aveva voluto venire, ma stava alla lontana, come imbronciato. Dopo Santa Maria Maggiore, ecco due, fermi ai piedi di un leccio, ed erano Agostino Tassi e Cosimo Furiere. «Dove vanno queste comarelle così di buon'ora?» diceva Cosimo, dando di gomito ad Agostino. E intanto arriva Francesco. «Tua sorella deve essere stanca e qui c'è la vigna di un amico», gli fa Agostino, come se fosse una persona grande, ma infilandogli nel braccio mezza serqua di ciambelle inzuccherate. «Tu seguitavi a camminare e ti lasciasti tutti indietro. Tuzia discorreva fitto con esclamazioni e risatelle, già non capivi più quel che dicesse. Poi ne sentisti alle spalle il respiro grosso. Correva e masticava pasticche. «Ne vuoi? Sono dolci!» E levano la sete. Non rispondevi, andavi innanzi in furia, avevi voglia di piangere e uno strano orgoglio vergognoso. Anche Francesco ti raggiunse masticando le sue ciambelle e anche lui te le offerse. Forse Agostino e Cosimo erano rimasti fermi. Forse ti seguivano. Non volevi voltarti. Artemisia non è contenta. Non essersi voltata è forse un merito. Aspettava di più. E soprattutto la logica di un raccontare tranquillo, una interpretazione meditata dei suoi gesti, proprio quello che io non posso più darle, avendola così strettamente vicina. Come mi cammina sulle calcagna, così mi baratta in mano le immagini e i ricordi. Mi racconta lei adesso come andò a San Paolo quando non era più ragazza, eppure ogni volta le pareva di essere forzata. ci andai in carrozza. Stavamo adesso a San Spirito. Il vicinato sapeva tutto. E Agostino un po' mi bravava, un po' pareva che parlasse sul serio, e poi mi minacciava di ammazzarmi. Mi ero messa in mente di andare a San Paolo a vedere il quadro d'altare del babbo, che non l'avevo visto sul posto. Avevo in cuore che mi avrebbe fatto bene. Tirava vento, io voglio andare lo stesso. Che Tuzia non voleva, per le minacce di Agostino. Io dissi, vado da me. Allora mi pareva che dopo la vergogna avevo almeno il diritto d'essere libera come un uomo. Anche i ragazzi mi davano noia se pensavo come nascevano. Ma lei mi si mise dietro con tutti i suoi e mi bastò vederla come si annodava il fazzoletto e si soffiava il naso appena sulla strada per capire che non saremmo rimaste sole. Al principio della lungara c'era una carrozza ferma che la polvere pareva se la mangiasse e uno ammantellato con la mano alla portiera. Mi voltai per tornare a casa perché avevo riconosciuto i polpacci storti di Agostino, ma il vento mi incollò i capelli sugli occhi e quando li riaprì Agostino era lì che mi faceva segno di montare e sorrideva come se fossimo d'accordo. Quella carrozza pareva una valle, ci capimmo tutti. E c'era dentro lo Stiattesi vecchio che diceva il rosario e sospirava. «Volevi andare a San Paolo?» fece Agostino appena ebbe chiuso lo sportello e scoprendo i denti cattivi. «Ci verrai con me, tocca cocchiere!» A sentirmi trascinare la mia furia si spense. Diventai calma e quasi contenta. Andare in carrozza mi è sempre piaciuto. Ai prati lui volle scendere. Tuzia disse che le dolevano le reni e che i ragazzi si sarebbero perduti per i fossi, tristi che erano. Solo Francesco mio volle scendere con noi, ma Agostino lo minacciò se ci seguiva. Lui raccolse un sasso, poi lo lasciò cadere piano piano e ci guardava dietro. L'erba era dura, la terra molle e mi bagnavo i piedi. Il vento era cessato. Volevo immaginarmi d'essere sola, sperduta. Chiudevo gli orecchi alla voce e alla pedata di Agostino, ma le nostre ombre erano già unite. Così fece anche questa volta quello che voleva. Mi stancava la rapidità con cui passavo quel tempo, dal malanimo al consenso, eppure in fondo al cuore seguitavo a disperarmi fino all'ultimo. Quel giorno Agostino mi dette l'anello con un gran giuramento di sposarmi appena venivano le fedi e che la moglie era stata una mala femmina ed era morta a Lucca, di sicuro, e io non sapevo che non era vero. Stavo zitta, poi a un tratto rispondevo come se qualcuno mi suggerisse con certe parolette non mie. Ma quel giorno, quando arrivammo alla chiesa di San Paolo dove gli altri ci aspettavano, mi parve d'essere cambiata per sempre. Mi sentivo come una sposa. Non mi vergognavo neppure. Tuzia mi dette un pizzicotto allegro come faceva lei e la mia disperazione ritornò. L'avrei picchiata. Mi toccò entrare, farmi segno della croce, guardare il quadro di mio padre e sentire Agostino che faceva il dottore. Questo non è ben disegnato, qui v'è poco lume, il colore è torbido. Francesco disse ad alta voce: «Ho sonno». Dipende da me il silenzio che segue questo racconto rotto, incalzato da una fretta convulsa. Decido che non lascerò più parlare Artemisia. Non parlerò più per lei. Nel mio presente non c'è più posto per il passato né per il futuro. Ma mentre discorro coi polverosi vivi, una fresca vocina ostinata e querula ripete la sua domanda. Non dico bene che ricorda la inabilità delle donne sciocche e curiose. E Artemisia fu una gran donna. Simile a un marito irritato, ritorno all'offensiva. Come se tu credessi a quel che scrivevo. Come se ti importasse veramente della mia perdita.